Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi qua. Pensate ad un filo elettrico, a come è fatto. Facilissimo, perché lo so anch'io. All'interno un'anima e poi intorno a una guainetta. Pensate adesso a che cosa fa un filo elettrico. Benissimo, allora nel nostro organismo abbiamo delle strutture fibrose che assomigliano a dei fili elettrici e in un certo senso svolgono una funzione analoga, in un certo senso naturalmente. Sono i tendini, li abbiamo tutti e tutti, sportivi e non, li usano, eppure c'è chi non sa neppure di averli e c'è chi con loro invece ha un conto sempre aperto. Posa un po' coi tendini, asciugati e riprendi. Oramai, lo sai, il mio sguardo sa difendersi, ma è capace anche ad arrendersi. E in linea con noi è tornato a trovarci il dottor Gianluca Melegatti, che è medico sportivo e primario fisiatra della riabilitazione all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Bentornato e buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Dottore, allora, sono robusti e resistenti, quindi sono strutturati per sopportare le varie sollecitazioni, ma a volte anche loro, poveri tendini, si stressano, si logorano e quindi si infiammano, a volte si rompono, proprio come succede a noi quando siamo sottoposti a stress continui ed eccessivi. Certo, in effetti il tendine è una struttura straordinariamente importante nel nostro corpo, perché fa un po' da trasduttore di forza, è un po' la struttura che mette in collegamento il muscolo al segmento osseo e ci permette per esempio di correre, di muoverci. Esistono tendini poi che sono particolarmente importanti e sensibili alle sollecitazioni, come ad esempio il tendine d'Achille. E infatti ci sono alcuni tendini che proprio perché sono più sensibili alle sollecitazioni ci danno più filo da torcere. Certo. Ha parlato del tendine d'Achille, un tendinone. Certo, è un tendine molto grosso, però è abbastanza delicato, nel senso che se lo si maltratta poi si incavola, nel senso che ci può dare dei problemi a tutti i livelli, al livello della persona che fa attività motoria, al sedentario e anche allo sportivo di alto livello. Quindi è una struttura, la struttura tendinea molto complessa, che ha un grande difetto, che è poco irrorato, nel senso che ci arriva poco sangue al tendine e quindi quando si infiamma o quando si logora è poi difficile ripararlo. Ecco perché la prevenzione, di cui parleremo credo più avanti, gioca un ruolo fondamentale nella tenere in ordine queste strutture così importanti. E dato che il tendine d'Achille è un tendine che spesso si arrabbia e spesso dà problemi non solo ai sedentari ma agli sportivi, in particolare a chi fa corse, ai podisti, ai runner, è in linea con noi Orlando Pizzolato, grandissimo maratoneta e direttore della rivista Correre. Orlando, ciao! Buongiorno a tutti! Senti Orlando, noi vogliamo iniziare con te a dare dei consigli di prevenzione, di buon utilizzo del tendine d'Achille. Il tendine d'Achille o questo tendinone, come giustamente lo definivi, lavora tanto perché ogni podista lo sollecita decine di migliaia di volte durante un allenamento, quindi bisogna prendersene cura con potenziamento sicuramente, quindi rafforzare il muscolo del polpaccio, chiamato volgarmente polpaccio ma sarebbe il tricipite surale, perché appunto è una leva anche molto forte, molto vantaggiosa soprattutto quando si corre in salita, ma nello stesso tempo oltre che a potenziarlo bisognerebbe anche mantenere flessibile e allungabile questo muscolo, altrimenti come diceva il dottore, essendo un tramite tra la muscolatura e l'articolazione, tende appunto a infiammarsi perché la muscolatura è rigida, quindi bisognerebbe fare quello che viene chiamato lo stretching, vale a dire la ginnastica di allungamento, quindi potenziamento e stretching è una costante negli allenamenti, o non solo correre, però alcuni minuti della seduta vanno dedicati sia prima sia dopo a questa cura, prevenzione del tendine. Orlando, e questo vale sia per chi si sente già uno sportivo, chi pratica sport costantemente, sia perché inizia ora a praticare attività sportiva, in modo particolare per loro? Sì, perché allora le patologie o i problemi della sofferenza del tendine possono essere di due tipi: o sovraccarico, quindi questo colpisce gli atleti che vogliono fare di più, cioè non prestare attenzione a quei fastidi, dolori che a volte escono da allenamenti impegnativi, ma anche poi per quelli che non hanno un'adeguata preparazione o sono sovrappeso anche spesso, e quindi diciamo che garantirsi un po' di incolumità va bene a tutti. Va bene a tutti. Lo si stressa troppo, ecco, questo tendine. Grazie ad Orlando Pizzolato per essere stato con noi. Buona giornata, Orlando. Grazie. E noi, dottor Melegatti, saliamo al ginocchio. Intanto ricordo il nostro numero verde per intervenire in trasmissione, 800 24 00 24, se volete darci dei consigli, un po' come ha fatto il nostro Orlando Pizzolato, se avete dei dubbi, delle richieste. Se avete, come mi scrivono molti di voi, sono almeno arrivate una decina di messaggi dicendomi ho un conto aperto con i tendini, chiamateci perché i nostri esperti vi daranno delle indicazioni preziose. Ginocchio, dottor Melegatti, io sono o sono andata troppo di corsa? No, direi di no. Il ginocchio è un'altra struttura che è molto sensibile a questi problemi di affaticamento o anche traumatici, perché il ginocchio è composto, tra le altre strutture, anche di una struttura tendinea importante che è il tendine rotuleo. Eccolo lì. Il tendine rotuleo è un tendine che si infiamma a sua volta soprattutto in attività che prevedono salto. Non per niente la tendinopatia del rotuleo viene chiamata ginocchio del saltatore o jumper's knee. Anche questa è una struttura molto forte ma molto delicata se non la si tratta bene. Allora, saltatore, in linea con noi abbiamo Andrea Zorzi, campione di pallavolo. Andrea, ciao, bentornato. Grazie a voi, ben ritrovati. Senti Andrea, a te affidiamo consigli di prevenzione per questo tendine rotuleo. Dunque, c'è un sacco di lavoro da fare, perché nella pallavolo, come voi ben sapete, da saltare ce n'è parecchio. Qualche volta salti massimali, tante volte salti notevoli, però non al massimo dell'elevazione, e poi non sempre si ricade perfettamente in equilibrio. Tendenzialmente, come si accennava prima, il tendine rotuleo è un po' sotto osservazione. Si cerca di essere abbastanza forti muscolarmente, quindi il lavoro con attenzione sul quadricipite tende a ridurre il carico che poi si scarica sull'inserzione del tendine. Diciamo che nel corso degli ultimi 20 anni si sono fatti passi da gigante nella prevenzione, a tal punto che adesso qualche volta con l'isometria si intende quel lavoro che si fa contraendo i muscoli senza muovere la gamba, e questo è molto utile perché quando ti fa veramente molto male il ginocchio non riesci a fare il movimento e a sua volta il muscolo tende a debilitarsi ancora di più. E quindi si finisce in un circolo vizioso in cui ti fa male, ti fa sempre più male, il muscolo si indebolisce e non ne vieni a capo. Qualche volta provare invece a ricostruire la forma del muscolo con l'isometria è estremamente utile, ma anche qui la prevenzione è la scelta più importante. Si tratta di fare del lavoro in base anche a livello di attività che si fa diverso. Io credo che un po' di lavoro isometrico sia estremamente utile, facile da fare in ogni posto, senza bisogno di attrezzature particolari. Grazie Andrea, terremo a mente i tuoi consigli. Quindi isometria, contrazioni muscolari, si tira forte forte forte forte il quadricipite per 4-5 secondi facendo alcune serie. Grazie, ci hai dato anche il compito, grazie ad Andrea Zorzi, dottor Melegatti. Però io stavo pensando, i muscoli quanto servono alla salute del tendine e come devono essere questi muscoli? Perché se sono troppo definiti, se sono muscoloni scolpiti, al tendine non è che piaccia granché, o sbaglio? No, non sbaglia assolutamente. Il muscolo gioca un ruolo fondamentale nell'equilibrio e nei carichi che arrivano al tendine. Il muscolo deve essere forte quanto basta e flessibile quanto basta. Abbiamo problemi se un muscolo è debole, così come abbiamo problemi se un muscolo è forte. Se un muscolo è debole, tutto il carico arriverà a livello del tendine e quindi il tendine verrà sovraccaricato. Se un muscolo è troppo forte e porrà sotto troppa tensione, sotto eccessiva tensione il tendine, che ancora potrebbe andare incontro a sofferenza. Quindi il bilanciamento tra la forza e la flessibilità a livello muscolare sono fondamentali per una corretta gestione del tendine. Dottor Melegatti, ma io ho aperto dicendo ci sono persone che hanno un conto aperto con i loro tendini e persone che non sanno assolutamente neppure che esistano. Certo. Ecco, ma il tendine si lamenta subito se si fa del male oppure in qualche modo sopporta e poi i problemi vengono fuori tutti insieme? Ma in genere entrambe le cose. È più facile avere a che fare con dei tendini che se ne stanno tranquilli e sopportano fino a quando non ce la fanno più e danno un segnale all'organismo preciso, ed il segnale è dolore. Mentre ci sono altri tendini che, se sollecitati in maniera improvvisa, attraverso sollecitazioni veramente eccessive rispetto a quanto tollerato da tutto il sistema, allora possono danneggiarsi in maniera traumatica acuta. Quindi possiamo avere delle lacerazioni acute traumatiche del tendine, così come più frequentemente dei problemi da sovraccarico che si sviluppano subdolamente, e se la persona non è in grado di stare attente, di capire questi segnali, allora si rischia di arrivare a una situazione molto difficile, perché si arriva a una tendinopatia cronica. Abbiamo Andrea che ci chiama da Milano, buongiorno, 800 24 00 24. Buongiorno Andrea. Buongiorno Nicoletta e buongiorno ai suoi ospiti. Buongiorno. Io ho chiamato perché mi piacerebbe avere un consiglio pratico. Io ho un problema al tendine del braccio, non della gamba, praticamente vicino al gomito, credo si chiami pericondinite. Sì, sì. Però è molto fastidioso perché mi prende dal bicipite al gomito fino all'avambraccio e mi impedisce veramente attività come palestra, ma anche sforzi più banali come portare la spesa col braccio. Andrea, questa è una scusa, perché mi sa che no, guarda, non posso portare, ti aiuterei, verrei con te a fare la spesa. Su questa della spesa, secondo me, io non ci credo. Dottor Melegatti? No, io non sia di parte. Io voglio crederci, perché è una patologia talmente frequente quella dell'epicondilite laterale del gomito. Ce l'hanno sempre gli uomini, però? Sì, molto spesso gli uomini, ma sai, gli uomini sono più sollecitati. Questa è il classico gomito del tennista, che si sviluppa non solo naturalmente in persone che giocano a tennis, ma anche in persone che usano tanto il mouse, che usano tanto attrezzi, che fanno lavori manuali, che vanno in palestra, che sollevano pesi. È una infiammazione che si sviluppa anche questa subdolamente e che ti porta addirittura a una situazione veramente di impotenza funzionale, tale da avere dolore a versare dell'acqua da una bottiglia o da portare una borsa della spesa. Allora, qui dipende molto dal livello dell'infiammazione. Bisogna aggredirla con un riposo relativo, con degli antinfiammatori locali, con la borsa del ghiaccio messa spesso durante la giornata, e se tutto questo non serve, non aspettare troppo e nel giro di 10-15 giorni prendere contatto con una struttura e con un medico che possa fare delle onde d'urto, perché le onde d'urto sono la terapia fisica più efficace in questo momento per l'epicondilite. Allora, ma volendo un po' allargare la nostra riflessione, potremmo provare a leggere i dolori tendinei, volendo anche quelli muscolari, da un'altra angolatura. Tutti sappiamo bene che la nostra postura, il modo in cui stiamo, ci muoviamo nell'ambiente, è condizionata anche dalle nostre emozioni. Questo succede anche se non ce ne rendiamo conto. Però proviamo a pensarci. Ci aiuta la dottoressa Tiziana D'Onofrio, che è direttore scientifico del Centro Studi per le Medicine Naturali IDO di Teramo. Buongiorno dottoressa D'Onofrio, bentornata. Buongiorno, grazie. Dottoressa, secondo la medicina cinese, ogni parte del corpo, oltre che una funzione, ha una sua simbologia. Certo, certo. E quindi la stessa cosa sarà per le articolazioni e i tendini e i muscoli che le controllano e le muovono. Sì. Ed è davvero affascinante se abbiamo questa diversa prospettiva di approccio ai dolori articolari o alle contratture muscolari o ai blocchi muscolari, perché lì non dobbiamo più soltanto osservare il sintomo o osservare la parte anatomica o quella piccola parte del corpo, ma bensì cercare di fare una valutazione generale. Le faccio un esempio. Grazie. I piedi, le nostre radici dal punto di vista simbolico, il punto in cui noi ci radichiamo alla terra e ci colleghiamo alla terra, ma anche intesi come caviglie e come capacità di scegliere una direzione, di muoverci in un senso o nell'altro e quindi di realizzare la nostra esistenza attraverso le scelte che facciamo. un altro aspetto simbolico ancora, visto che lei mi induce in questa direzione. E per esempio il tendine di Achille per noi non è più soltanto il tendine di Achille, ma il punto in cui noi localizziamo la prima porta dell'uomo, la porta in cui simbolicamente noi da bambini stiamo ancora gattonando, camminiamo ancora sul terreno e poi all'improvviso diventiamo in grado di essere eretti, di stare in piedi. Ecco, questo diventare uomini, assumere la posizione eretta, vuol dire che abbiamo attraversato la prima porta che l'uomo deve attraversare, certo, e che è quella del tendine di Achille. Quindi, come vede, è un approccio completamente diverso. Quindi dolori in questa zona, lei ha citato il tendine d'Achille, piede, sì, caviglia, sì, potrebbero significare in questa lettura? Difficoltà di scelta, difficoltà della direzione in cui andare, difficoltà di essere in piedi come uomini su questa terra o stare sulla punta dei piedi, come per voler guardare troppo lontano, volersi protrarre a guardare un orizzonte che è troppo distante da noi, quindi perdere questo contatto nutriente e rigenerante con la terra che è l'appoggio corretto del piede. Dottoressa D'Onofrio, mi racconta che cosa significano invece ginocchio e spalla oppure gomito? Perché dai suoi suggerimenti noi proviamo innanzitutto a sentire i nostri tendini. Il dottor Melegatti diceva che bisogna saperli ascoltare perché sennò poi ci presentano il conto che è piuttosto salato. Certo. Ma con questi suoi stimoli, questi suoi suggerimenti possiamo anche farci una domandina in più, il che non guasta. Poi magari la risposta la troviamo dopo, ma intanto... Perché no? Le dico subito in modo molto semplice, cerchiamo di fare dei piccoli riassunti. Le ginocchia per noi simbologicamente sono collegate al rene. Sì. Al rene, detto così, in medicina occidentale, è semplicemente colui che produce, filtra le urine, filtra il sangue. In realtà per la medicina cinese il rene è il ministro della forza. È colui che ci dà la determinazione, la grande volontà di andare avanti, la grande volontà di raggiungere gli obiettivi, l'energia sessuale anche, la forza sessuale. Quindi stanchezza alle ginocchia, dolore alle ginocchia, problemi alle ginocchia, per la medicina cinese fanno pensare al rene. Infatti quando siamo proprio scarichi oppure ci sentiamo proprio giù di tono, che tutta la vita ci pesa addosso, mi dice mi ha messo in ginocchio. Saliamo se lei vuole. Cosa facciamo? La spalla? Benissimo, andiamo alla spalla. La spalla invece tra l'altro è sede di una delle ultime porte dell'uomo, quella che raggiungiamo quando siamo in grado di prendere il peso sulle spalle. Quindi la spalla è la nostra capacità di portare la nostra vita sulle spalle e ogni volta che abbiamo dolori alle spalle, dolori alla regione anche che dalle spalle porta al collo, quindi la regione cervicale, è che quando la nostra vita ci pesa troppo sulle spalle. E quindi il mito di Atlante è anche collegato allo stesso modo. Quindi le spalle diventano la nostra capacità di essere uomini, eretti, dritti e così tanto forti da portare il nostro mondo sulle spalle. Amedeo mi scrive, Nico, per favore chiedi del gomito. Chiedo del gomito e andiamo ai mercati. Gomito. Il gomito è la scelta che noi abbiamo di portare il mondo, qualcosa del mondo, verso di noi o di allontanarlo. Quindi il gomito è la scelta che facciamo nella vita di abbracciare qualcuno o qualcosa o di allontanarlo. E ogni volta che questo gomito per tanto tempo non guarisce, è chiaro che è un gomito del tennista, certo, un dolore infiammatorio per uno strappo, non disturbiamo, non arriviamo alla simbologia, certo, taoista. Però se questo gomito continua per 6 mesi a darci fastidio, per tanti mesi non riusciamo, una volta fatti gli accertamenti dovuti e visto che non ci sono lesioni organiche importanti, possiamo pensare a questa problematica che abbiamo nella nostra vita di portare qualcosa a noi o allontanarla. Nostri tendini, lo facciamo con il dottor Melegatti. Dottore, allora abbiamo dato già qualche regola di prevenzione che è valida sia per chi pratica sport che per i sedentari, perché comunque non è necessario essere un campione per avere problemi di tendine. Assolutamente no, anzi paradossalmente sono proprio i campioni quelli che curano meglio i propri tendini e quindi li rispettano di più. Per cui le regole sono importanti anche e soprattutto per chi pratica attività sportiva o ricreativa a livello amatoriale o anche per i sedentari, perché effettivamente il sedentario va incontro a un sovraccarico tendineo. Sembra strano pensarlo, però immaginiamo la persona che sta 6, 8, anche 10 ore a una postazione di lavoro e poi quando si alza rimette in funzione il proprio tendine in maniera un po' aggressiva, o quella persona che tutta la settimana se ne sta sedentario alla scrivania e poi al fine settimana ha la malaugurata pensata di prendere la bici, dottor Melegatti. Quindi le regole di prevenzione sono fondamentali, soprattutto per le persone, diciamo, normali. E le regole di prevenzione, la prima regola fondamentale di prevenzione è quella di fare comunque del movimento, di muoversi di più. Di muoversi di più e di muoversi meglio, di controllare il peso, perché il peso è la prima vera cosa che crea sovraccarico al nostro tendine anche in situazioni di riposo. Quindi diamo un occhio al nostro peso, muoviamoci spesso, una mezz'ora, anche un'ora di camminata veloce al giorno tengono lontani i problemi dei tendini in genere. Per chi invece fa sport, naturalmente è qualche cosa di un po' più specifico, come ricordava Andrea Zorzi, lo stretching o pizzolato, lo stretching è fondamentale. Lo stretching deve essere fatto bene, non deve essere fatto in maniera esagerata. Bastano 5-6 posizioni di allungamento muscolare mantenute per 15-20 secondi, prima e dopo qualsiasi tipo di attività che preveda un movimento dell'apparato locomotore. 800 24 0024, andiamo a Como, c'è Carlo che ci aspetta, buongiorno. Buongiorno. Carlo. Allora, io non sono uno sportivo e non sono neanche un sedentario, ho scoperto, almeno mio malgrado, che sono un agente di commercio, quindi guido molto, a un certo punto ha incominciato a farmi male un ginocchio, si è gonfiato, ho fatto una risonanza e è venuta fuori una condromalacia di terzo o quarto grado e con un'infiammazione del tendine rotuleo, insomma chi più ne ha più ne metta, Carlo, eppure ecco. Il mio problema è questo, che molto probabilmente dipende dalla guida, il ginocchio destro, e quindi anche se prendessi una macchina automatica, però ho sempre l'acceleratore e il freno da questo punto di vista, e quindi io adesso mi trovo... Come si fa? Certo. Quindi, consigli pratici. Carlo, dottor Melegatti, che cosa consigli può fare? Vada a piedi. Questo purtroppo non è possibile. Non può, perché fa l'agente di commercio. Lui è certo, come per tante persone che lavorano in macchina o alla scrivania. Il consiglio pratico per chi guida tanto è, nel limite del possibile, cercare di fermarsi ogni tanto, non stare alla guida per più di 2 ore, fermarsi 2-3 minuti, fare il giro della macchina, fare 2 passi e riprendere la guida. Mantenere il sedile particolarmente arretrato, quindi non guidare con il ginocchio piegato vicino ai 90 gradi, questo può aiutare spesso a evitare eccessiva carico, perché qui ricordiamoci che non stiamo parlando solo di un problema tendineo, ma anche di un problema cartilagineo, quindi è un problema complesso il problema di questo signore, è un problema di non facile risoluzione, ma senz'altro risolvibile non solo con questi consigli pratici, ma anche con dei trattamenti, con delle terapie specifiche per migliorare la qualità della contrazione muscolare e per migliorare la qualità della cartilagine. Senta, ma a parte della cartilagine, noi torniamo al tendine, lei ha detto le onde d'urto. Certo. Ma è l'unica terapia possibile o c'è dell'altro? Direi di no, le onde d'urto sono una terapia di elezione per quanto riguarda problemi all'inserzione del tendine all'osso, quindi è il gold standard, come diciamo noi, cioè la terapia migliore in assoluto, ed è equiparabile a una terapia chirurgica per problemi tendinei alla loro inserzione all'osso. Ricordiamo che la tendinopatia inserzionale è una evenienza molto frequente che prende più del 50% dei problemi tendinei. È chiaro che ci sono altre terapie come la laser terapia, come la terapia elettrica, però come gli ultrasuoni, però mi sento di dire che le onde d'urto sono, hanno una marcia in più, diciamo. Senta, ma queste onde d'urto con una marcia in più fanno male o no? Allora, dipende molto dall'operatore e dalla macchina che viene utilizzata. Non è una leggenda metropolitana quella che dice che le onde d'urto sono sempre dolorose, non è assolutamente vero. Ci sono onde, le onde d'urto in genere non sono dolorose, sono certo fastidiose, c'è di meglio nella vita di fare una seduta di onda d'urto. Ma più o meno il fastidio che potremmo tollerare qual è? Perché è un dolore localizzato nella zona, è come la esacerbazione del dolore che noi sentiamo durante le fasi di dolore della nostra patologia. Però tenga presente che è un dolore che viene modulato, nel senso che quando il dolore è forte il paziente dice aia e l'operatore abbassa il livello di erogazione di energia, quindi si può modulare. Non è, come le ripeto, non è vero che le onde d'urto devono per forza essere così dolorose e intollerabili, non è così. Allora, quindi se ci fa troppo male cambiamo operatore, cambiamo macchina, insomma, direi, si può. Direi, Luigi, direi. Buongiorno, da Roma. Buongiorno, anzitutto complimenti per la trasmissione, ottima, grandissima a tutti. Grazie Luigi. Dunque, arrivo subito al punto, sono un ex cestista, affetto da tallonite bilaterale, e mi chiedevo quanto può una tallonite bilaterale che nel tempo va e viene, quanto può compromettere sia il tendine d'Achille sia le strutture più in su come il ginocchio o la bassa schiena, struttura lombare, e dunque può incidere sulla postura e il camminare. Grazie Luigi, bella domanda, perché ci dà modo di capire se, oltre a tutto quello che abbiamo detto di cause che possono in qualche modo danneggiare i nostri tendini, ci sono delle sofferenze in altre parti, in altre zone del corpo che possono influire sulla salute di queste strutture fibrose. Dottor Melegati. Certamente, questa è un'ottima domanda e rispecchia molto la situazione di molti pazienti che hanno problemi, per esempio, all'estremità. La tallonite può essere un problema legato a una infiammazione della fascia plantare alla sua inserzione all'osso, e questo può creare un'alterazione dello schema del cammino, e l'alterazione dello schema del cammino sicuramente a catena provoca dei problemi da sovraccarico anche nelle strutture superiori, e guarda caso le strutture che vengono infiammate e vengono interessate prima di altre sono i tendini. Quindi è esattamente come dice il signore, vale a dire, da un problema al tallone possiamo avere problemi via via a salire che interessano il tendine d'Achille, che interessano il ginocchio, che interessano la schiena, che interessano anche l'apparato adduttore, quindi con problemi di pubalgia e via così. Questo perché tutto questo discorso pone un concetto molto importante che noi conosciamo bene, che è il concetto delle catene muscolari, quindi quello che succede in basso può succedere anche, può influenzare anche quello che avviene in alto, proprio perché il nostro corpo è unito da catene muscolari. E i nostri tendini, come vi avevo anticipato, possono avvantaggiarsi di una dieta, di alcuni alimenti in particolare. Ne parliamo tra poco con la dottoressa Sara Farnetti, che è internista e nutrizionista all'Università Cattolica di Roma, che è in linea con noi, che voglio salutare e ringraziare. Buongiorno. Buongiorno a voi. Noi andiamo subito a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Ricordatevi quindi, per chi è alla guida, di non guidare, no? Con il naso troppo vicino al parabrezza, ma di allungare, giusto dottor Melegati, un po' le gambe. Certo. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede, poi ritorniamo subito insieme per capire quali sono gli alimenti che proteggono i tendini, quali sono gli alimenti da preferire quando i tendini hanno qualche problema, e poi ci vogliamo chiedere, ma la salute dei tendini riflette anche un po' la salute generale dell'organismo? Ci sono persone che ne fanno di tutti i colori e che non hanno problemi ai tendini, altre a cui basta un po', poco, pochissimo, e il tendine si lamentano. Come mai? Sicuramente tre nutrienti fondamentali per la salute dei tendini sono: uno, il silicio; due, le proteine; la vitamina C. Il silicio è un nutriente, appunto, una sostanza molto importante per i tendini come per gli annessi cutanei, quindi le unghie, i capelli, per le ossa. E il silicio si trova nei legumi, spesso dimenticati nella nostra alimentazione, ma si trova anche nella cipolla, nell'aglio, ma semplicemente nel grano, in cereali minori come il miglio, l'amaranto, eccetera, o nelle patate, che adesso sono novelle e molto buone, utili di stagione. E poi le proteine. Le proteine non devono mai mancare nella nostra alimentazione, usandone giustamente una dose adatta per ciascuno di noi in base al carico di lavoro che sopportano i nostri muscoli e quindi anche i nostri tendini. La vitamina C, insieme al silicio e al collagene, è determinante in quanto proprio partecipa alla sintesi del collagene. Allora, un piatto di molto gustoso potrebbe essere quello di fare un contorno di piselli cucinati come si fa nella tradizione, con un po' di cipolla che li rende anche più diuretici, un pezzetto di prosciutto crudo, e poi aggiungere vicino una ricetta particolare che pochi usano e pochi conoscono, è quella dei nervetti. I nervetti sono proprio appunto i tendini dell'animale, del bovino, che hanno poco sapore, sono poco calorici ma ricchissimi di proteine e di collagene, si possono cucinare semplicemente bolliti e poi saltati con un po' di aglio, olio e prezzemolo, e a volte si trovano in questi ristoranti tipici. Aggiungere a questo piatto un'insalata fresca ricca di vitamina C a base di spinaci crudi, ad esempio di rucola, sempre abbondante magari succo di limone, un po' di olio extravergine d'oliva, e poi completare con frutta di stagione ricca di altre sostanze utili che sono altre vitamine, ma ancora vitamina C, come per esempio le albicocche. E abbiamo fatto un piatto fantastico alla salute dei tendini. Possiamo telefonare a Russell Crowe per dire: noi abbiamo il pranzo pronto per i tuoi tendini, poi vediamo se accetta l'invito. Per chi invece, dottoressa, ha i tendini già un po' compromessi, quali sono gli alimenti da preferire? Allora, sicuramente ritorniamo alle vitamine che troviamo appunto nei vegetali di stagione. Vitamine, abbiamo già detto la vitamina C, poi vitamina E contenuta in tutti i semi oleosi, soprattutto le mandorle, i pinoli, eccetera, ma nell'olio extravergine d'oliva, che è il principe, il re della nostra tavola. E poi vitamina A, meglio provitamina A e beta carotene, che si trova nelle uova, si trova nel latte, ma soprattutto negli ortaggi, nella frutta di colore giallo, arancione e verde scuro, le carote, i broccoli, i pomodori in questo periodo, le albicocche, i meloni, eccetera, molto importante sempre per la salute dei tendini. Non dimentichiamo i polifenoli. Polifenoli sono sostanze colorate che si trovano in molti vegetali, appunto quelli di, per esempio, rosso-violetto, adesso ci sono le prugne, oppure nell'uva rossa in altri periodi dell'anno, ma nelle erbe aromatiche. Ad esempio, aggiungere un po' di curcuma. La curcuma è una spezia, diciamo un aroma molto diffuso nella tradizione indiana, simile allo zenzero, che poi è la base del curry, quindi lo conosciamo tutti. Ma non ne conosciamo anche il nome. La curcuma è ricca di curcumina, che è una sostanza antinfiammatoria, quindi adattissima per chi ha le tendiniti, e tanto anche ricca di polifenoli. I polifenoli sono queste, diciamo, sostanze importanti perché proteggono dall'infiammazione. Non è che proteggono, anzi riescono a ridurre l'infiammazione. È ovvio che abbiamo bisogno di mangiarne costantemente, quindi dovremmo aggiungere, e ricordarci di farlo, erbe aromatiche ad ogni pasto. Mi raccomando, non bruciamole, perché siamo soliti usarle nel soffritto, le mettiamo all'inizio nell'olio, le bruciamo, poi non possiamo consumarle. All'ultimo si mettono, vero? All'ultimo. Prima di salutarla, un ascoltatore mi scrive: che mi dici del cavolo come antinfiammatorio? Sicuramente il cavolo cappuccio, che tra l'altro, ricordiamoci, le crucifere, la grande famiglia a cui appartiene il cavolo cappuccio, sono più invernali, ma è un tipo appunto che è caratteristico estivo di questo periodo. Quindi non la sentiamo più tanto bene, ma io spero di non di interpretare anche il suo messaggio. Se noi ci facciamo il cavolo di stagione e aggiungiamo un po' di curcuma o delle erbe aromatiche, voilà, abbiamo un potente effetto antinfiammatorio. Dobbiamo sospendere il collegamento con la dottoressa Farnetti, mi dispiace perché non la sentiamo più bene, ma io ho un'altra amica che è venuta a trovarci, con cui vogliamo concludere insieme al dottor Melegatti una puntata. Oggi che ci siamo occupati dei nostri tendini, abbiamo visto quanto i piccoli traumi siano per loro dannosi, quanto sia importante il riscaldamento, ascoltare i messaggi che ci mandano. Abbiamo cercato anche di interpretare questi segnali sotto un'altra luce, secondo la lettura della medicina cinese. Tutto questo per avere maggiore consapevolezza della nostra postura, consapevolezza di come muoviamo il nostro corpo anche quando facciamo esercizio fisico, consapevolezza come insegna il Pilates. E in linea con noi abbiamo Anna Maria Cova. Anna Maria? Buongiorno Nicoletta. Ciao. Buongiorno dottor Melegatti. Fisioterapista e fondatrice della Covatec Pilates School. Allora, il dottor Melegatti approva il Pilates? Assolutamente. Assolutamente sì. Che consiglio vivamente a sani e a pazienti. Quindi, Anna Maria, noi non possiamo fare un corso di Pilates in un paio di minuti, ma sicuramente provare a convincere i nostri ascoltatori ad affidarsi a questa tecnica che dà ottimi risultati, come diceva il dottor Melegatti, sia alle persone che assolutamente non hanno problemi, e sono la maggior parte, ma anche chi ha già avuto qualche segnale di cui che vuole spegnere. Anna Maria. Ma collegandomi a tutto quello che è stato detto, prevenzione. Prevenzione vuol dire avere la consapevolezza di dove sono collocate queste articolazioni, che funzionano i tendini, e soprattutto una cosa interessante del Pilates è che si può associare il lavoro del Pilates sia a dei momenti di fase subacute di infiammazioni che di lavoro di prevenzione. Cosa vuol dire? Che se una persona ha il tendine d'Achille infiammato, si ritrova che ha l'indicazione al riposo. E abbiamo un sacco di esercizi che vengono eseguiti in quella che si definisce catena cinetica aperta, che permettono a tutto il resto del corpo di muoversi e di non sovraccaricare quel tendine specifico. Dopodiché ci sono tutti gli esercizi per acquisire un corretto allineamento, un corretto lavoro ed evitare che ci siano micro traumi che nel tempo possano provocare vere e proprie pesanti patologie. Grazie ad Anna Maria Cova, grazie al dottor Melegatti per essere stato con noi, per averci accompagnato in questa puntatona. Io vi auguro grazie e buona giornata. Grazie anche a lei. Buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata anche a voi che ci avete seguito, che potete rimanere in contatto con noi sul nostro profilo Facebook, potete sempre scriverci e soprattutto tornare a trovarci domani dopo il GR delle 11. Buonissima giornata da Nicoletta.